Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Eccomi qui, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Anche questa settimana una sarabanda di notizie incredibili, quindi fate subito mente locale per immaginare, per riflettere sui tanti fatti della settimana, per scegliere quella che è la vostra notizia di questi giorni, da lunedì, da domenica anche scorsa, fino ad oggi. 800 24 00 24, le notizie ce ne sono un'infinità, avete l'imbarazzo della scelta, sono anche notizie imbarazzanti molte. Comunque, per esempio quella del 17 marzo, no? Fino a ieri non si sapeva, si fa festa, non si fa festa il 17 marzo, che si fa per una volta nella storia dell'Unità d'Italia, adesso. E, che ne pensate di questa cosa? Poi si è addivenuti, diciamo, a una conclusione. Chi potrà stare a casa, nel mio caso, in altri casi no, il 17 marzo da scuola, dal lavoro, però a spaccatura all'interno del governo, la Lega, Borghezio che ha parlato di un giorno di lutto, eccetera eccetera. Poi abbiamo naturalmente il caso Ruby con gli sviluppi, se volete anche Sanremo, se volete dire qualcosa su Sanremo, le donne in piazza, tante polemiche, tanta scia, forse ce ne sarà altre piazze di donne da una parte e dall'altra, eccetera eccetera. Lo smottamento di Futura Libertà, che ne sarà? E poi Vendola che, per esempio, candida come possibile premier da contrapporre a Berlusconi. Rosy Bindi, ma al di là di Rosy Bindi, dello schieramento eccetera, si fa almeno il nome di una donna. Che ne pensate voi? E poi questa sentenza della Cassazione che non si è capito bene fino a che punto inviti, comunque è un argomento lanciato molto interessante, inviti a legiferare lo Stato italiano sull'adozione da parte dei single. La Libia in fiamme, naturalmente, tutti i problemi dei paesi del Nord Africa, del Mediterraneo, dei vari paesi islamici, quello che sta succedendo, morti, feriti, rivolte eccetera eccetera, la riforma della giustizia, insomma, non ve ne suggerisco altri, pensateci voi. 800 24 00 24. Mentre io, prima di tra poco salutare il mio opinionista estemporaneo di oggi, sarà un uomo, sarà una donna, lasciamo un po' di suspense, naturalmente vi dico, come ogni volta, che cos'è che ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni. Ebbene sì, anche lui non è più lo stesso. Anche il Monopoli, qualcuno di voi avrà fatto tempo a giocare così un'oretta col Monopoli quando era piccolo. Adesso parlano di una nuova versione che arriverà in autunno, se vi interessa costa $50 e poi naturalmente poi fate il conto con gli euro. Meno romantico, sembra più in linea con i tempi, è uno dei giochi da tavola più diffusi nel mondo, insomma, più o meno li conoscono da una latitudine all'altra. Subirà questa trasformazione radicale. Niente più dadi, che è così divertente, no? Lanciare dadi, uno che se ne va da una parte, niente banconote, piacere di avere i soldi in mani, niente, anche se sono finti, sostituiti, pensate, da una torre computerizzata, raggi infrarossi, ormai tutto che ci arriva in modo elettromagnetico, raggi infrarossi, posizionata al centro del rettangolo di questo gioco, che guiderà poi passo passo i giocatori e terrà il conto dei soldi, si assicurerà che siano rispettate le regole. Forse ci vorrebbe un'enorme torre di controllo con raggi infrarossi anche sull'Italia e su altri paesi, insomma. Comunque la nuova versione si chiamerà Monopoly Live, un po' più internazionale, sperando che, insomma, questa cosa possa fare breccia poi anche tra i più giovani. Però ci sono subito gli ortodossi critici. Io anche personalmente so quanto mi piacerà questo nuovo Monopoli. Comunque, per dirvi, non ci sono più le mezze stagioni, anche il Monopoli, la tradizione, la sicurezza, una certezza, insomma, della nostra storia, niente, cambierà anche quello. E poi un'altra cosa che cambia è un segreto. Rimanessero almeno alcuni segreti, tutto deve essere svelato. Perché? Una radio di Chicago ha svelato la ricetta della Coca-Cola. Voi sapete che la ricetta della Coca-Cola era conservata fin dall'inizio del Novecento, quando fu, insomma, inventata in un cassettino dell'azienda, super segreto, in una banca addirittura salvaguardato come il Santo Graal, una roba pazzesca. Invece questa radio di Chicago ha svelato la ricetta. Io ho tentato di farla a casa, una sfilza innumerevole di ingredienti, alla fine mi sembrava che venisse fuori una roba chimica scoppiettante, ho lasciato perdere, ho detto, vabbè, se proprio la volessi la vado a comprare. E poi mi piace anche, quando possibile, così fare un po' volo d'uccello, diciamo, sulle pubblicità. Vi avevo già detto all'inizio di gennaio che già i primissimi giorni di gennaio si scatenavano alcune pubblicità dicendo poi alla fine della reclama: questo è stato eletto prodotto dell'anno 2011. All'inizio di gennaio, dico, cioè l'anno, fate almeno passare qualche giorno, qualche mese per eleggere il prodotto 2011, fatecelo provare, verificare. Ecco, continuano questi prodotti, se ci fate caso continuano a essere, e poi sono 2000, com'è che sono 2000 prodotti 2011, prodotti dell'anno, vabbè. E poi una cosa che mi fa particolarmente sorridere è questa esperta di capelli lisci. C'è uno shampoo con balsamo, credo, che interpella l'esperta di capelli lisci, no? Come se una da piccola dicesse: che vuoi fare da grande? L'esperta di capelli lisci. Io quasi se rinasco faccio l'esperta di capelli lisci, avendoli io un po' mossi magari. Poi questa esperta è una giapponese, grazie tante, direte voi, cioè, i capelli così a stecchino, a spaghetto, sarà esperta sì di capelli lisci, o meglio ce l'ha già, come fa a essere esperta? Comunque, al di là di tutto, un'altra pubblicità che non mi dispiace è una che lancia un invito, diciamo, un po' in contrapposizione con i tempi che corrono. Dice: osate essere teneri, che è un po' una trasgressione effettivamente. Parla di cioccolato, poi che il cioccolato è tenero, per carità. Però mi piace, osate essere teneri, osate anche voi possibilmente essere teneri, soprattutto voi maschi, ma anche le donne, non tutte sono tenerissime. Bene, a questo punto, dopo aver fatto un po' di ciance e tenere ancora un po' di suspense su l'opinionista estemporaneo, vi ricordo che poi la trasmissione potete sempre ascoltarla sul sito di radio24.it e anche su Facebook. Su Facebook continuano i vostri commenti sui fatti della settimana, già anticipandoli in questi giorni, per esempio sul caso Ruby. La CNN ha detto in questi giorni, ha preannunciato il processo del 6 aprile come il più sensazionale della storia d'Italia. Questi sono i commenti di alcuni ascoltatori, per esempio Massimo dell'associazione Spazio Uno di Pontedera dice: il caso Ruby fa emergere la grande ipocrisia di chi ci governa in modo imbarazzante, senza pudore. Non parlo del pudore sessuale, ma del pudore della ragione e della coerenza. Poi Elisabetta di Cassano nelle Murge scrive: saliamo alla ribalta internazionale sempre per la nostra sensazionalità, non si poteva immaginare miglior modo di celebrare questi 150 anni di storia di patria. Questo sempre sulla pagina Non ci sono più le mezze stagioni di Facebook. E poi Adriano di Venezia: e se fosse una strategia di Berlusconi da aprile dell'anno scorso non si fa altro che parlare di Silvio sempre in prima pagina. Secondo me potrebbe essere così una strategia promozionale, insomma, un po' strano però. E poi invece, per esempio, sull'adozione da parte dei single, sempre Adriano dice: credo di no, è già difficile per una coppia, figuriamoci per un single. Secondo lui i tempi non sono maturi. Per Robert dice: single donna sì, ma uomo no. Fa una distinzione, per esempio, Robert. Invece Tatiana dice: sono favorevole a patto che la valutazione dello psicologo sia preponderante, come già accade per le coppie. Credo però che non accadrà mai, pessimista, insomma, nonostante la sentenza rappresenti un precedente. Poi sulla proposta di candidare Rosy Bindi da parte di Vendola, vediamo Monica di Firenze dice: una donna come presidente del consiglio non sarebbe affatto male, però non so se Rosy Bindi ha il carattere adatto. Comunque, al di là di tutto, mi sembra che il carattere ce l'abbia. Stefano dice: non ha il giusto carisma. Poi altri commenti: non credo abbia il talento per tenere unita una grande coalizione, e eccetera eccetera. Insomma, questo per quanto riguarda Facebook, ma è il momento a questo punto, signore e signori, di presentarvi l'opinionista estemporaneo di oggi. Maria Luisa Busi. Buongiorno Maria Luisa. Buongiorno, buon weekend a tutti. Maria Luisa, influenzata, quindi non so se sono al meglio della mia, no, Maria Luisa, della mia forma, no, della mia verve. Pretendo, Maria Luisa, che tu durante la mia trasmissione, questa volta sono riuscita a invitarti, tu sia proprio al massimo splendore di te stessa. Già sei splendida, ex volto bellissimo del TG1. Ecco, come donna ti dà fastidio se io ricordo che sei bellissima? Uno dice: vabbè, un altro giornalista in televisione, un volto del TG1, sei maschio, no, non c'è più di dire grazie. Che bello. Ti dico grazie, non è così, non ritengo sia così, ma insomma ti dico grazie. Ma abbastanza furor di popolo. Non è mica una cosa di cui vergognarsi, la bellezza assolutamente, sono altre cose di cui vergognarsi, no? E poi ci dirai, perché mi pare che ci siano brutte notizie, ma Maria Luisa Busi, l'avete conosciuta tutti, per circa 20 anni sei stata volto del TG1, o un po' meno, Maria Luisa? Sono da 25 anni in Rai, il mio primo contratto l'ho avuto nell'85, e sì, ho condotto il TG1 per 18 anni, nelle varie edizioni. Ha iniziato a 15 anni, a 15 anni praticamente, mi sembra, no? Facendo il calcolo. Prego, scusa, non ti sento bene. Ha iniziato a 15 anni facendo il calcolo, si dice che sono quasi 20 anni, 25. Sì. No, a 15 certamente. Minorenne. No, ho 46 anni, sono orgogliosissima anche della mia età, ti dirò. Maria Luisa Busi, appunto ex volto del TG1, che a un certo punto ha sbattuto la porta e se n'è andata. Ti sei dimessa, no? Qualche mese fa, Maria sì, Luisa. Sì, sono dimessa dalla conduzione, sì, dalla conduzione del telegiornale delle 20, che è il telegiornale principale, insomma l'edizione principale, con il massimo ascolto della RAI, ecco. Sì, diciamo che era un ruolo piuttosto importante, sì. Ti manca questa cosa? Mi manca, se mi manca l'apparire in video, no, non mi manca affatto. Devo dire che ho rinunciato, come posso dire, con un... è stata una decisione ponderata, anche perché era l'unica cosa che avevo ed era una cosa molto importante. Non avevo pronta una via d'uscita, non avevo pronto un seggio in Parlamento, come hanno scritto i giornali. Pur essendo bella, diciamo. Al centro-destra. E come dici? No, niente, era un commento. Dicevo, pur essendo bella, non hai trovato collocazioni di altro tipo. Niente. No, ma non credo. Guarda, che io ti ringrazio del complimento, però non credo, e tu sai molto bene, senz'altro, che la bellezza conta evidentemente sino ad un certo punto, e mi vergogno della banalità della cosa che sto dicendo. Cioè, quando ti appare sul. Sono dei video che hai di fronte, quando sei seduto a quella scrivania e hai davanti 9-10 milioni di italiani, come in passato il TG1 aveva, oggi sono molti, molti di meno, e ti appare magari una riga soltanto che dice Papa malore, anzi due parole, e beh, lì la bellezza non conta. Cioè, noto una vaga vena polemica di Maria Luisa Busi, che infatti fare un po' appello ad altre cose, insomma, e ricordarti un po' di storia e avere, come dire, altri argomenti oltre al fatto di essere bionda. Quindi mi pare che ci siano brutte notizie, Maria Luisa Busi, a proposito di notizie. Brutte notizie, ti riferisci al titolo del tuo libro, del pubblicato libro da Rizzoli, come l'Italia. Un sottotitolo, sì. Come l'Italia è scomparsa, il sottotitolo, come l'Italia vera è scomparsa dalla TV. Come l'Italia vera è scomparsa dalla TV, sì. Ci sono brutte notizie, sì, in questo paese, in questo momento storico, un momento molto triste, io direi. L'Italia è diventata un paese piuttosto triste. L'altro giorno è venuto a intervistarmi un collega della TV olandese, è venuto naturalmente per sentire anche la mia opinione, come l'opinione di altri giornalisti che presumibilmente la pensano in modo diverso. In questo caso andavano a sentire anche Giuliano Ferrara, perché insomma in altri paesi europei, questa si trattava della TV pubblica olandese, e in altri paesi europei si ascoltano anche le voci contrarie rispetto a un'opinione, cioè non si fanno, come dire, delle trasmissioni a tesi, no? Come da noi invece purtroppo accade. E mi chiedeva proprio questo, questo giornalista olandese, che aveva evidentemente una visione dell'Italia straordinaria nel passato, forse anche un po' immaginifica magari, però questa era l'idea che gli europei, insomma, che il mondo aveva di noi, e mi chiedeva, ma secondo te, questo collega diceva, ma secondo te l'Italia è diventato un paese triste? Dico, tu che cosa dici? E lui dice, secondo me sì, e dico sì, sono d'accordo, è diventato un paese un po' triste, un po' rassegnato, un po' cinico, un po' indifferente, no? Maria Luisa, voglio chiedere a uno dei primi ascoltatori che sta chiamando all'800240024, poco prima della pausa per la viabilità, che Roberto Scaltritti e la parte tecnica mi annuncia essere pronta, è vero Roberto? Antonio dalla provincia di Siracusa, secondo te è un paese triste l'Italia? Sì, buongiorno. Piacere. È molto triste, molto piacere, perché diciamo che il cittadino non è in diretto contatto col palazzo, si è molto distaccato dal palazzo e dalle cose di semina. Diretto insomma, contatto quello un po' difficile, però dici poco in sintonia, poco in empatia, cioè poco scambio. Antonio, sì. Rimani lì qualche istante, che adesso aggiorniamo chi sta viaggiando, e poi di nuovo 800240024, di nuovo con Maria Luisa Busi. Non ci sono più le mezze stagioni. Sempre qui con voi Roberta Giordano, e per parlare insieme delle notizie della settimana, per tornare a commentarle come sempre, poi facciamo il punto insieme io e voi il sabato col numero verde 800240024 e ogni sabato con un opinionista estemporaneo che oggi è Maria Luisa Busi, ex volto del TG1, giornalista, conduttrice, inviata speciale, ha scritto questo libro che si intitola Brutte Notizie per la Rizzoli, sottotitolo Come l'Italia vera è scomparsa da TV. Ci stava dicendo che è un paese triste, mi pare che Antonio dalla provincia di Siracusa fosse d'accordo. Antonio diceva, il paese è triste, sì, perché non, sì, c'è disamore per la politica. Sì, io vedevo prima da ragazzino tante famiglie, tante coppie che progettavano, adesso le vedo molto sfiduciate, ma questo è un punto rosso veramente da guardare bene con attenzione, perché può causare la qualsiasi depressione, la qualsiasi cosa al paese, alla gente. Non vedo la progettazione, non vedo tanta felicità, anche se poi la felicità dura poco, come le cose belle durano poco, però neanche quel poco vedo. completo, ecco. Finora si è parlato molto, ecco, negli ultimi anni, più recentemente, uno dei termini dominanti è stato precarietà, quindi precarietà di tutto, del lavoro, anche quindi del progettare, dello stare insieme. Mi piaceva in questi giorni anche l'editoriale di Giuseppe De Rita, che parlava del primato della contingenza, ecco, lui adesso sostituisce una contingenza di cose da affrontare momento per momento, anche a livello proprio di stati, di mondo, di cose che succedono lì per lì, come per esempio queste rivolte scoppiate nel Nord Africa, che poi improvvisamente ci ributtano di nuovo nell'emergenza dell'immigrazione, quindi cose da affrontare nel momento in cui succedono. Comunque, scusa questa divagazione, Antonio, quindi il tuo tema è questo? No, questo te l'avevo sottoposto io. Qual è il tuo tema, Antonio? Sì, no, io volevo anche dire un'altra cosetta sull'Unione Prego. D'Italia, no? Sul Risorgimento. Alcuni editoriali della Lega o personaggi grossi della Lega, tipo Calderoli o un altro europarlamentare, l'ho sentito un po' nei giornali e nelle radio dire che questa Unione Nazionale ce l'hanno con noi, però io a questi signori li invito, a chi non crede all'Unità d'Italia, di guardare il 14 luglio un francese di 5 anni o di 90 anni, in qualsiasi posto del mondo questo francese si trovi, o sia della periferia di Parigi o dell'estrema manica o del basso qui Mediterraneo. Quello è la più grande festa per loro, il 14 luglio. Io la presa della Bastiglia. Io li invitavo perché per loro rappresenta la festa nazionale, la liberazione dalla monarchia alla Repubblica, la borghesia che viene. Cioè, li invidiavo proprio, ma tantissimo, ragazzino, guardavo questi francesi anziani. Questi francesi, dai formaggi ai vini e anche al patriottismo. Grazie Antonio, ti ringrazio. E adesso sai che probabilmente dovremmo avere, prima del collegamento con un altro pianeta, voi sapete questo, è l'unico programma in tutto il mondo che si collega anche con altri pianeti, non parliamo solo di Terra, cioè per essere anche più democratici, più pluralisti, direi di fare un collegamento che è un po' che tento di fare, l'altra volta non è riuscito, la scorsa settimana, per capire un po' la temperie anche del Parlamento, visto che Napolitano continua a dire cerchiamo di abbassare i toni, cerchiamo di pacificarci, sentiamo se riusciamo a collegarci. No, mi sembrano ancora un po' agitati. Va bene, chiudi il collegamento, Roberto, grazie, non fa niente, colleghiamoci con un altro pianeta, va. Riflessioni da Marte. Questa settimana, osservando come sempre il globo terracqueo da quassù col mio telescopio qui da Marte, mi è parso di capire che questa è stata soprattutto una settimana di grandi, estenuanti dilemmi. Vale a dire, Elisabetta Canalis o Belén Rodríguez? Le donne in piazza strumentalizzate o non strumentalizzate? E la competenza va al Tribunale di Milano o a quello dei ministri? Lasciare o non lasciare Futuro e Libertà e magari lasciargli la libertà ma estirpargli il futuro. E poi transfughi per imperizia di Fini o per il danaro di Berlusconi. E il PD da che parte deve guardare per non restare strabico e anche solingo? E poi festeggiare il 17 marzo l'Unità d'Italia restando a casa o piuttosto portandosi una bottiglia di spumante Brut a lavoro? Ebbene, in tutti questi tormentosi quesiti, l'unica certezza, diciamolo, sono i capelli di Gianni Morandi. Un fenomeno paranormale, se ci pensate, foltissimi, lucidi, granitici, imperturbabili, sempre verdi, anche se castani. Ma come fa? Uno si chiede, li ha imbalsamati. Chissà quanti uomini, specialmente a qualcuno, provocherà un travaso di bile. Ma l'Italica Penisola può in realtà vantare anche delle altre certezze, naturalmente. Quella, per esempio, che la giustizia prima o poi arriva. Certo, a volte magari riescono a passarla liscia e ferrati delinquenti, magari per insufficienza di prove, ma lei no. Lei non la scampa, che vi credete? Lei è la famigerata anziana professoressa di lettere delle medie di Palermo che, come forse ricorderete, costrinse un alunno che aveva insultato e preso in giro un compagno dandogli del finocchio e impedendogli di entrare nel bagno dei maschi, facendolo quindi piangere davanti a tutti. Lei costrinse questo specie di bullo a scrivere 100 volte «Sono un deficiente». Non so se vi ricordate. Alla professoressa era sembrata una lezione di civiltà, punire un bullo in difesa dei più deboli, no? A voi che vi sembra? Ma niente, implacabile, il Tribunale di Palermo in secondo grado, dopo decine di udienze, l'ha condannata a un mese di carcere con sospensione della pena, la donna 60 anni, scomodando addirittura in questo processo la rivoluzione culturale cinese del 1966 e la Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra. Almeno, diciamo, il diritto internazionale è salvo, ma le buone notizie notizie non finiscono qui. Una ginecologa francese, tale Odile Buisson, lo conferma. Il punto G esiste. Non è un mito moderno, dice, esiste ed è scientificamente provato. Lo sostiene nel suo libro dal titolo eloquente. Sentite un po'. Chi ha paura del punto G? Sottotitolo, il piacere femminile, un'angoscia maschile. Lo sappiano dunque maci nostrani a ogni latitudine e cultori del bunga bunga. La caccia al tesoro non è roba da tutti. Torniamo con i piedi per terra, naturalmente, Maria Luisa Busi. Volevo chiederti, Maria Luisa, e poi tra pochissimo c'è Pierluigi da Milano, no? Si è fatta molta polemica, c'è stato molto riscontro, molta partecipazione lo scorso 13 febbraio, domenica, con le donne in piazza in 230 città italiane, e si è parlato appunto, no, in favore della dignità delle donne. Qualcuno ha detto, però erano strumentalizzate, erano contro Berlusconi. Al di là, uno può poi esprimere qualsiasi idea in piazza, giusto o sbagliata che sia, non per forza deve essere strumentalizzata. Però trovo molto interessante, per esempio, che oggi Federico Fubini sul Corriere si chiede se per una volta pensassimo alla dignità dell'uomo, cioè del maschio. Ti leggo brevemente alcune sue considerazioni, poi mi dici cosa ne pensi. Dice, esercizio per il weekend, quindi provate magari. Provate a individuare, dice, per strada, al parco, allo stadio, un capannello di uomini dall'aria mediamente civile navigata e cercate di orecchiarne la conversazione. Di questi tempi si somigliano tutte. Uno racconta che è appena tornato dalla Germania e il tassista dell'aeroporto ha sogghignato quando ha scoperto che il suo cliente era italiano. Un altro è stato in Marocco e anche lì il cameriere ha ammiccato fastidiosamente quando ha scoperto che il suo cliente era italiano, e così via. Anche loro provano a riderci un po' sopra, ma sono facce tirate perché il discorso pubblico li sta stranamente dribblando. Dice ancora Fubini, dopo mesi di caos politico, mediatico, giudiziario, infermiere travestite da consiglieri regionali travestiti da infermiere, tuffi in massa alla Jacuzzi in tenuta da poliziotte, quegli uomini si sentono un po' giù di corda. In Italia il discorso pubblico e le manifestazioni si sono concentrate, giustamente, dice, sulla dignità della donna. Ma della dignità dell'uomo, l'uomo maschio, cosa dire? Se c'è una figura che esce a pezzi da intercettazioni, testimonianze, interviste e sogghigni dei tassisti esteri, è decisamente la sua. Tu cosa ne pensi? Guarda che sono un po' affari loro, degli uomini. Manca solo che adesso noi donne non abbiamo neanche insomma una quota giusta di parlamentari, non abbiamo consigliere d'amministrazione nelle grandi aziende e non abbiamo granché di direttrici dei giornali, abbiamo mi pare due rettrici d'università in tutta Italia, ci mettiamo anche a preoccuparci di loro. No, guarda, però devo dire una cosa, che insomma io ero il 13 ero lì in piazza, tra l'altro non sono neanche riuscita ad entrare, sono rimasta appena fuori dalla ressa, perché c'era un fiume di gente. E una cosa che ho notato, anche poco colta forse anche dalla stampa nazionale, è che era pieno di uomini, ma era quindi pieno anche di famiglie. Quindi sono anche fatti loro, allora, evidentemente. Ma sono certamente di quegli uomini lì, sì, sicuramente. No, voglio dire, non è stata esattamente una, secondo me, insomma, non è stata esattamente una manifestazione di eterofemministe, cioè era pieno di ragazze, era pieno di universitari, è stata una manifestazione per la dignità della persona. Della persona, ecco, perché sessismo e misoginia dilagano nel nostro paese, questa è una cattiva notizia, ma non è nuova, da tempo cresce e dilaga nella società, nel mondo del lavoro, nell'università, negli ospedali, nelle aziende, grandi e piccole, questo sottile disprezzo per le donne. E oggi che il re è nudo, anzi a quanto pare addirittura diventa piuttosto pornografico a mio avviso, e questa cosa è sotto gli occhi di tutti, e soprattutto la cosa peggiore è che è sotto il ludibrio del mondo, cioè noi sappiamo, insomma oggi sappiamo, soltanto chi gira la testa dall'altra parte non può non sapere e non può non capire da dove viene questa sottocultura qui, insomma. Per me, secondo me, questa è una mia modestissima opinione, viene da 25 anni, anche da 25 anni di televisione, che non ha avuto nessun tipo di rispetto per le donne, che ha dato questa immagine deturpata, offensiva, grottesca delle donne italiane. Certo, però questo è soltanto un aspetto, dell'aspetto più certo. appariscente di questa generale mancanza però di uguaglianza. Questo è l'humus, quella televisione lì, quella cultura lì, quella sottocultura magari lì. È alimentato, però c'era già, insomma, è un humus, no? Il nostro paese. È un humus dove questa erbaccia della mancanza di rispetto, la mancanza di uguaglianza ha potuto crescere, spesso devo dire però nell'indifferenza della politica, e purtroppo da una parte e dall'altra forse purtroppo certamente e purtroppo anche delle donne stesse. Nell'indifferenza della politica parlavi prima, mi indicavi questo spunto, no, di Rosy Bindi. È bastato dire perché non Rosy Bindi premier, no? Poi tra l'altro diceva Vendola di un governo di transizione, per carità, non si parli di un governo, come dire, in sella definitivamente in ipotetiche elezioni vinte dalla maggioranza di centrosinistra. No, lui diceva di un governo di transizione che faccia le leggi. Una grande alleanza. E anche qua, insomma, ci sarebbe molto da discutere. Poi vediamo se gli ascoltatori e le ascoltatrici si appassionano a questa possibile grande alleanza, che anche lì si capisce bene dove si può andare. Pierluigi da Milano, al numero verde 800 24 00 24. Prego, Pierluigi. Ciao, buongiorno. Buongiorno, Pierluigi. Vorrei salutare la signora Busi, è veramente un onore per me, sono una sua fan sfegatata. Chissà quando ritorna in video, va bene, no, ti aspettiamo. Non lo so, poi io chiediamo a Maria Luisa. Pierluigi faceva il tifo per te, insomma, ti vuole rivedere presto. Non so in TV. Se mi sente, ma lo ringrazio moltissimo. Sì, ti sente forte e chiaro. Prego, Pierluigi. Bene, allora, secondo me è arrivato il momento di dare una bella scossa al femminile, di dare un premier femminile. L'Italia, secondo me, è arrivato il momento giusto. La Bindi mi starebbe anche bene, però diciamo che è molto di parte, quindi io la butto lì. Un io nome direi, qualsiasi, una donna qualsiasi, dimmi cosa ti piace, chi ti piacerebbe? Io direi che la Marcegaglia sarebbe perfetta. Donna, prima che bella, è una gran bella donna, è intelligente, è brava, ha tutti gli attributi, è forte, è fredda, è cinica, secondo oddio, me. Oddio, cinica. Non so se gradisce questo complimento. Io la metterei al terzo polo, come capo del terzo polo, e poi così trascinerebbe dietro anche quelli del centrosinistra. Io è fan da politica, però la butto lì. Ti starebbe benissimo. Ma se potete, Pierluigi ha lanciato un bello spunto, potete lanciare qualsiasi nome di donna, purché di donna, vediamo se avete in mente una donna da una parte o dall'altra che possa rappresentare una leadership in Italia. Poi ci sarà Francesco da Ancona. Sentiamo già Francesco un po' la tua notizia e poi però facciamo questa pausa, perché c'è Giorgio De Luca che continua a prendere le vostre telefonate, ma dobbiamo fermarci un istante. Francesco. Pronto? Sì, siamo qua. No, io volevo dire che ultimamente la televisione italiana sbaglia semplicemente in un fatto. Secondo me vengono puntualizzati e messi in evidenza troppo i fatti negativi. Tipo? Parli di cronaca nera o cosa? Sì, cronaca nera, e anche per quanto riguarda le serie più seguite, sono sempre riguardanti un po' cruente, un po' sanguinolente. Sì, secondo me questo non fa altro che mettere in risalto queste cose. Cioè, io vedevo l'altro giorno, per esempio, il telegiornale, le uniche. Il 90% delle informazioni erano riguardanti cronaca nera. Senti Francesco, ma secondo te quelle politiche sono belle o brutte notizie, per esempio? Allora, per quanto riguarda quelle politiche, secondo me sono brutte notizie. dimmi una proprio ferale, una proprio che ti ha lasciato lì, accasciato di notizie politiche. No, va bene, tutto l'insieme sta venendo fuori, una parte dell'Italia che forse c'è o forse no, comunque sta demolendo tutto quello che di buono come immagine avevamo, sia per quanto riguarda l'Italia stessa che all'estero. Grazie Francesco, grazie. 800 24 00 24, ci fermiamo, vi annuncio solo che fonti francesi continuano a insistere che Ben Ali, l'ex dittatore della Tunisia, sarebbe morto, anche se non c'è nessuna conferma. Invece una buona notizia, a proposito della notizia di Sakineh, sapete la donna che doveva essere lapidata in Iran, che per il momento è salva, anche i due giornalisti tedeschi che erano stati incarcerati presto saranno rilasciati con una multa, insomma meglio pagare qualcosa, ma comunque liberi. A tra poco, 800 24 00 24 per dire qual è la vostra notizia della settimana. Non ci sono più le mezze stagioni. Roberta Giordano sempre con voi sino alle 15 o poco prima, quindi se volete esprimere le vostre opinioni sui fatti della settimana chiamate per tempo il numero verde 800 24 00 24. Come mia opinionista estemporanea oggi c'è Maria Luisa Busi, ex volto del TG1, giornalista, inviata, ha scritto questo libro Brutte notizie, come l'Italia vera è scomparsa dalla TV. Due cose volevo chiederti velocemente, Maria Luisa. Una è questa: tu stai a Roma, ma insomma un po' di prezzi te ne intenderai anche di altre città. No, secondo te a Milano costa più vivere in periferia o in centro, per esempio vicino al Duomo in Via della Spiga? Ma francamente penso più vicino al centro, questo lo dico a lume di naso, immagino. Costa di meno o di più vivere in centro? Penso che costi un po' di più, immagino. Di sbagliato, più. Sbagliato Maria Luisa Busi, questa risposta è sbagliata, sì, hai una penalità perché è venuto fuori ieri la lista a proposito di questa fittopoli milanese che gente, VIP di vario tipo, politici, personaggi dello spettacolo eccetera, abitano in Via della Spiga o a ridosso del Duomo con dei prezzi stracciatissimi, di nuovo. Trivulzio, mentre in periferia costa molto di più. Questo Pio Albergo Trivulzio è stato la culla di Tangentopoli, da lì venne fuori lo scandalo, no? Negli anni 90, di nuovo ritorna con i suoi immobili affittati a gente, insomma, con privilegi, a prezzi stracciati, con immobili di estremo pregio. Io mi chiedo, sia Pio Albergo Trivulzio, di Pio mi sembra che abbia un po' poco, insomma, poi andranno avanti con le inchieste. Invece ti voglio chiedere, a proposito dell'adozione da parte dei single, secondo te il nostro paese è pronto? Tu saresti personalmente favorevole? Guarda, io ho moltissime amiche single che per varie vicissitudini si sono ritrovate poi nella vita, insomma, a separarsi dal compagno, dal marito, eccetera, e che per varie e molto spesso tristi vicissitudini non sono riuscite ad avere nel frattempo dei figli. Io molti anni fa ero stata a Pompei per gli speciali del TG1, ero stata a Pompei in uno degli ultimi orfanotrofi esistenti in Italia, poi sono stati chiusi e i bambini sono stati messi, insomma, nelle varie case famiglie. Non è che non ce ne siano più bambini abbandonati, moltissimi, sono milioni, bambini, poi bambini soli. Il punto è che il trafilo delle adozioni, chi l'ha conosciuta, io grazie al cielo ho due figlie mie, ma mi piacerebbe molto anche prendere un bambino in adozione, è sempre molto molto lunga. E avendo queste amiche le conosco bene, so molto bene quale tipo di affetto potrebbero dare e che tipo di completezza educativa potrebbero. Quindi meglio con una sola persona che in istituto. Assolutamente. E ricordo ancora, scusa, la tristezza di quell'orfanotrofio, la tristezza di questi bambini grandi che nessuno voleva. Quindi mi chiedo perché no, è meglio che rimangano soli? Angelo, sentiamo Angelo da Lodi, tu cosa ne pensi, Angelo? Vabbè, io volevo intervenire soprattutto sul fatto della grande coalizione. Sì, sì, sì, sui single, francamente mi sembra un'assurdità, però voglio dire. Meglio in istituto da soli lì per finché diventano maggiorenni senza aver avuto una persona che le ha fatte sentire speciali. Sì, ma però non penso proprio che affidandola ai single poi la cosa cambi di parecchio, insomma. Dici sono più tristi coi single che in istituto? Ma guardi, la senso tristezza, di casa, voglio dire, la tristezza dipende un po' dalla condizione che non riguarda senz'altro avere un genitore qualsiasi. Comunque, insomma, questa è la tua opinione legittima. Angelo, quindi qual era, hai detto, il tuo tema? Beh, il mio tema era un flash sulla grande coalizione. Sì. Volevo dire, visto che l'hanno fatta in Germania, non capisco perché non si possa fare in Italia, forse molto brevemente perché la politica italiana è più vicina sull'America che a quella dell'Europa. Seconda cosa volevo dire per le quote rosa, cioè noi dobbiamo battere i recinti, non costruirli. cioè voglio dire, se facciamo la quota rosa dovremmo fare quelle rosse, quelle blu, quelle Angelo, verdi. Però se facciamo una gara di velocità e gli stacchi di partenza delle donne li fanno sempre partire 4 km indietro, se non si abbattono prima quelli ancora dei muri, prima quei blocchi di partenza tirati molto indietro, è chiaro che gli uomini arrivano sempre prima. Se, però, se si coalizzano tra loro, se ci sono le lobby maschili, se al potere ci sono gli uomini e si riconoscono soltanto tra di loro, no? Come stima, come lobby, come interessi reciproci, come... Cioè, comunque, cioè voglio dire, se c'è un ministero delle pari opportunità, visto che l'abbiamo creato, visto che poi in Italia si possono anche intraprendere delle politiche che possono favorire, come dice lei, il sesso femminile, giusto perché è condizionata dalla sua condizione appunto femminile, per cui non possono far carriera perché magari devono fare i figli eccetera, mentre in Francia li fanno tranquillamente, siamo sempre lì. Ma, insomma, ma non dobbiamo farlo tranquillamente. Per legge cosa vuol dire? Angelo, perché se tanto gli uomini continuano a mettere nelle liste per le elezioni dei partiti, non è la colpa agli uomini, qui si parla di persone, cioè voglio dire, non è che parliamo ma di questo neutro donne, è poco convincente, vero. Angelo, gli uomini tirano sempre fuori un po' queste escamotage, ma no, è tutto uguale, siamo alla pari, stesse opportunità, stesse cose, e poi chissà perché le donne in Parlamento proprio una minoranza sparuta, nei consigli di amministrazione manco per niente, in tutte le stanze dei bottoni del potere non ce ne sono. Ci sarà un motivo, dice che è colpa delle donne o sono gli uomini che si passano il potere soltanto tra di loro? Comunque, Angelo, ti ringrazio e adesso dobbiamo subito correre a un breve sipario ma interessante, visto che una delle notizie anche di questa settimana è di Sanremo, e io direi, per introdurre l'ospite che tra pochissimo sarà con noi, mettiamo una delle canzoni di questa edizione della 61esima. Prego Roberto. Non so, è proprio di questa edizione, dicevi? Una roba un po' più recente, vabbè. Giuseppe Antonelli, ecco, ciao Giuseppe. Giuseppe Antonelli è docente di linguistica italiana all'università di Urbino. Di Cassino, perdonami Giuseppe, e ha scritto anche un bellissimo libro che è dedicato alla musica italiana. E è un, possiamo dire, esegeta, diciamo, della musica. Si intitola questo libro Ma cosa vuoi che sia una canzone, mezzo secolo di italiano cantato, che è un libro bellissimo, fatto tra l'altro appunto con la sapienza, la competenza e l'interpretazione di un linguista come Giuseppe Antonelli. Giuseppe, quindi di questo Sanremo, se tu dovessi dire una canzone che ti ha colpito, di cui hai voglia di dare un'interpretazione, una lettura linguistica appunto. Quella che mi ha colpito di più è quella di Van der Stross, secondo me è il testo più azzeccato linguisticamente di questa edizione del Festival di Sanremo. Quella di Van der Stross, lo ricordo, è una canzone in dialetto laghe o tremezzino, che dir si voglia. Cioè il dialetto l'unico che ha cantato in dialetto, è una polemica che si trascina negli ultimi 2-3 anni, se non sbaglio, no? Delle canzoni in dialetto. Sì, perché fino adesso solo qualcuna in napoletano era stata accettata e quindi rompe un tabù. Però noi dobbiamo tener conto di un fatto, che negli ultimi dati Istat ci dicono che in Italia un terzo delle persone, quando parla in famiglia o in casa o tra amici, dice di usare metà dialetto e metà lingua. È un continuo cambiamento di rimescolanza di codice, come la chiamano i linguisti. Dunque non è così assurdo che a Sanremo, che si vuole sempre lo specchio dell'Italia, ci sia anche una lingua che mescola un dialetto di base con l'italiano. Perché l'altra cosa che rende questo testo molto particolare è che è l'unico che sembra essere stato scritto oggi. Gli altri testi di Sanremo sono tutti un po' come Grazia dei Fior, sia per i contenuti, che parlano di un amore così senza tempo e senza luogo, sia un po' per la lingua, che usa sempre gli stessi trucchetti per avere gli accenti giusti al punto giusto. Qui invece abbiamo un lessico estremamente attuale. Intanto abbiamo una serie di nomi di marche o marchi, perché questo è il panorama che ci circonda in questo periodo. C'è chi ha parlato proprio appunto di Marco Rama, e c'è la Red Bull, c'è la Suzuki, c'è l'iPhone, insomma sembra di sentire peggio che il Gran Premio. C'è Sandokan, perché tutto si basa su questo gioco dei personaggi di Salgari, che in sulla spiaggia porta i mutande della Billabong. E le mutande della Billabong è una marca, che sì, per surfisti e cose. Giuseppe. Ci sono un sacco di parole straniere, è l'unico testo che si contamina come, come fa oggi l'italiano con le lingue straniere, perché c'è l'happy hour, c'è la vuvuzela, c'è il mojito, e insomma c'è tutta una situazione linguistica e non interessante che ci riporta all'oggi. Però Giuseppe, ti devo dire, ti devo deludere, pare che sia uscita questa gaffa di Morandi che in una conferenza stampa oggi ha detto il più televotato è Vecchioni, e pare invece che insomma non lo dovesse dire, però dice il direttore di Rai 1 Mazza, dice è stata una gaffa sul, sul televoto, non altera nulla, insomma, questa cosa. Giuseppe Antonelli, ti ringrazio. Giuseppe Antonelli, ma cosa vuoi che sia una canzone? Questo è il suo libro, alla prossima Giuseppe. Grazie, ciao Roberta. Ciao Giuseppe. E a questo punto abbiamo ancora la viabilità, 800 24 0024 per le vostre notizie della settimana, tra poco di nuovo con Maria Luisa Busi e invece subito dopo con Stefano Andreoli di Spinoza.it, il blog satirico più cliccato della rete. Non ci sono più le mezze stagioni. E galoppando, galoppando, come anticipato, eccoci arrivare incontro, a braccia aperte, adesso il nostro Stefano Andreoli, il tutor, il fondatore, il creatore, la mente inventiva, diciamo, basta così, di Spinoza.it, che è anche diventato un libro. Buongiorno, buongiorno Roberto. Caro Stefano, sei caldo, sei brillante, eccoci, sei ispirato? Sono caldissimo, poi c'è Maria Luisa Busi, questo grande nome, come non parlare della manifestazione delle donne di domenica scorsa, se non ora quando. Quando? Ecco, io sentivo queste interviste alle manifestanti alle quali veniva chiesto in Italia cosa c'è che non va, e loro rispondevano ma no, niente. Però secondo me è un problema di comunicazione quello che esiste da sempre, peraltro. Ma veramente dicevano ma no, niente? Ma forse ho capito male io, comunque talvolta si sa, le donne per dire una cosa ne dicono un'altra. Si parla di 1 milione di donne in piazza a protestare, ma Berlusconi un po' gongolava di questa cosa, era contento, anche questa volta le ho fatte urlare un po' idea beceramente di questa cosa, ma parlando di Berlusconi, come non affrontare il tema dei suoi processi? Berlusconi sarà processato per 2 reati. Il 6 aprile. No, non quelli, quegli altri reati, no, non quelli lì, quegli altri. Verrà giudicato da 3 donne. Ghedini sta cercando di spiegargli che non è una buona notizia, quindi è un problemino. Tre donne giudici, potrebbe confondersi su per cosa pagarle, ma andiamo avanti, parliamo del Festival L'Allegria di Sanremo molto bello, Morandi, mi piacciono molto poi le vallette di quest'anno, Luca e Paolo, veramente una notevole contributo. Che erano stati anche ospiti, tra l'altro, qui non ci sono più mezzi stagioni, le ottime vallette anche qua. Sì. Albano canta un pezzo sulla prostituzione, il grande ritorno della canzone politica, non so se... Anche Vecchioni canta Chiamami ancora amore, la canzone di Vecchioni Chiamami ancora amore, è un pezzo sulle intercettazioni, non lo volevano far cantare perché è stato un casino, il testo era coperto dal segreto istruttorio. C'è stato Sanremo Giovani, la sintesi di Sanremo Giovani, ragazzi che cantano canzoni che si vergognerebbero di ascoltare davanti agli amici, questa in pratica e vanno a Sanremo apposta per essere liberi di cantare. Vediamo con una piccola curiosità, stiamo chiudendo? Chiudiamo per alzare il livello. In Belgio da mesi senza governo, il Belgio è allo sbando, la situazione 300 giorni quasi, una situazione politica in stallo, e una deputata propone un atto estremo. Invita le mogli dei politici coinvolti nelle negoziazioni ad astenersi dal sesso. Come fecero anche un nuovo governo. È anche una commedia di Aristofane, se non sbaglio, mi sono informato per alzare il livello culto, quindi praticamente niente sesso finché non ci sarà un nuovo governo, si può dire che ne hanno le palle piene. Io ora qui molto bene, via con la mannaia subito della censura, non è mai troppo tardi per Stefano Andreoli, via che sto un po' tardando, grazie Stefano, ciao. E riprendiamoci un po' guardando invece le ultime agenzie dell'ANSA che danno notizia di una vittoria di Ermin Zögler, ha vinto la sua 10ª Coppa del Mondo di slittino, se vi può interessare, la 6ª consecutiva, conquistando la gara di Sigulda in Lettonia. Ci sono anche molti sportivi in ascolto, immagino, 800 24 0024 mentre Maria Luisa Busi con il suo libro Brutte Notizie pensa a qualche notizia tra poco di conclusione, un suo commento che può scegliere tra il 17 marzo la questione dell'Unità d'Italia, dei festeggiamenti o no, lo smottamento di Futuro Libertà, che fine farà, fa anche rima, e poi oppure la Libia in fiamme, la questione dell'immigrazione, eccetera. Io vorrei sentire ancora sinteticamente Marco della provincia di Varese. Marco, sarai molto sintetico, non è vero? Sì, certo, sono in linea, grazie. Grazie, prego. Cosa succederebbe se si aprisse alle adozioni dei single? Possiamo vederlo nella società. Già adesso succederebbe niente né più né meno di quello che succede a tanti padri separati, ovvero di come le madri gestiscono in modo autonomo in molti casi il figlio, anche in spregio a quelle che sono le sentenze del giudice. Non succederebbe né più né meno di questa cosa. Ma in che senso? Nel senso che quindi, come le donne sanno tirar su i figli da sole, lo possono fare da sole anche lasciando proprio volontariamente da parte la figura paterna, perché ci sono dei casi che sono veramente tanti. No, hai ragione, Marco, è vero, in alcuni casi sì, e penso che ci sia la legge a cui appellarsi. In molti casi, ti assicuro, sono gli uomini che se ne lavano tranquillamente le mani, ed è comodo vederli una volta al mese. Però sono tanti, ti assicuro, che anche dispiaciuti della separazione, anche però si rifanno una vita con un'altra compagna, con altre persone, eccetera, eccetera, e il figlio si accontentano di vederlo una volta al mese, una volta alla settimana. Ci sono quelli che dici tu, ma ci sono anche molti che si comportano in questo modo. Marco, ti ringrazio. Adesso dobbiamo correre invece verso l'altro prossimo appuntamento, quello con la nostra linguista Valeria Della Valle, alla quale vorrei sottoporre un termine che è venuto fuori da Famiglia Cristiana, che da un po' di tempo ci dà duro, diciamo, sul Presidente del Consiglio, e ha detto: il fatto che sarà giudicato da tre donne, perché appunto sarà giudicato da tre donne, è per lui una nemesi storica. Allora ci traduci, ci interpreti, questo Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, questo termine? Nemesi, che un po' usiamo tutti, corrisponde al nome di Nemesis, che nella mitologia greca e latina era la dea della giustizia, quindi quella che puniva tutto quello che trasgredisce la legge naturale, che turba la legge, l'ordine dell'universo. Ora, la parola già anticamente è stata usata col significato di sdegno, di indignazione, di vendetta, di castigo, e in ogni caso questa parola ha il valore di una sorta di giustizia divina, no? Proprio perché la dea originariamente distribuiva gioia o dolore secondo il giusto. Ora torniamo all'osservazione di Famiglia Cristiana, ma il fatto che saranno proprio tre donne a giudicare servirà almeno a una cosa, cioè se non altro a ricordare e riabilitare questa dea un po' dimenticata nella sua funzione, speriamo, di dispensatrice di giustizia divina. Ce lo auguriamo, insomma, in senso in particolare. Grazie mille a Valeria. Grazie. Grazie, ciao Valeria, sempre preziosa. Valeria, intanto stavo leggendo anche altre agenzie dell'ANSA, non era Morandi che ha fatto la gaffa, ma un funzionario della RAI, lui ha sbottato una parolaccia, adesso non mi sto a ripetere, ma inizia per V e finisce però. Comunque, in conclusione, Maria Luisa Busi, mentre Maria Luisa ha avuto 38 di febbre, ve lo svelo adesso, va detto che è un po' influenzata, ma avete notato che lucidità nonostante tutto. Hai preso un po' di brodino, Maria Luisa, nel frattempo? Ti sei curata? Certamente, pollo, brodo di pollo. Brava, brodo di pollo che fa benissimo. Senti, allora, tra queste notizie, quei 23 secondi che abbiamo, sulla quale vuoi lanciare una sentenza lapidare, un giudizio laconico? No, una cosa a volo d'uccello, direi grazie agli ascoltatori innanzitutto, agli ascoltatori uomini che hanno detto delle cose molto sagge, come ha detto quell'ascoltatore, per le donne è il momento di essere premier, insomma di assumere ruoli di responsabilità, dico, e non di potere, ma di responsabilità. A Pierluigi, sì. Che non è un fatto di nomi, bindi, mascagaglia, eccetera, ma è un fatto di progetto. Direi che la cosa più importante è il progetto politico che si può avere e dare come alternativa a questo paese. C'è una notizia che mi ha colpito, mi dicevi cos'è che mi ha colpito in questa settimana? Sì, a parte abbiamo due secondi. Cose di cui si parla e sulle quali stendo un velo pietoso, mi ha colpito il fatto che è morto quel marocchino, questo signore si chiamava Adouane, era un ambulante marocchino, si era dato fuoco a Palermo, sì, per una multa, ed era un ambulante, un extracomunitario regolare, si è dato fuoco per una multa ed è morto. Questa è la notizia che mi ha brutta notizia anche questa e che dovrebbe far riflettere. Un'altra cosa mi ha colpito, che a Sanremo queste contaminazioni che ci sono state, no? I due comici che hanno letto Gli indifferenti di Gramsci, no? Sì. Io penso che nel nostro tempo non si possa non essere partigiani, non essere di parte. Maria Luisa Busi, e mentre mi si apre, scusa, la botola sotto la sedia, sto per sprofondare. Brutte notizie quindi di Maria Luisa Busi, come l'Italia vera è scomparsa dalla TV. Prendi la copertina, mi raccomando, riguardati Maria Luisa. A presto, ed è Roberta Giordano, Sereni Orizzonti. A tutti.